Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza di Maria Piera Ceci. Vado via perché l'occupazione è solo un rito adolescenziale, è illegale e antidemocratica. Vado via perché durante l'occupazione si gioca a carte. Vado via perché quando c'è l'occupazione la gente ne approfitta per restare a casa. Vado via perché alcuni dicono che durante l'occupazione non si fa niente e allora meglio stare a casa e studiare. Vado via perché le stesse persone, quando non c'è l'occupazione, non studiano. Resto perché, nonostante la Gelmini, questa è una scuola dove si studia e si lavora. Resto perché, a causa della Gelmini, talvolta in questa scuola ci si incazza con la Gelmini. Vado via perché alcuni genitori, quando c'è occupazione, non mandano i figli a scuola per tutelare la loro incolumità fisica. Resto perché in 15 anni di Vittorini non ho mai visto i miei studenti prendersi a botte. Vado via perché quando c'è occupazione troppi studenti sembrano diventare improvvisamente troppo sensibili alle tematiche sociali e sognano un mondo troppo giusto, ma non fanno volontariato. Vado via perché quando finisce l'occupazione ritorna l'individualismo e il cinismo e il sogno finisce. Vado via perché durante l'occupazione c'è sempre qualcuno che vuole fermarsi a dormire, non capendo che è irragionevole perché è inutile e pericoloso. Resto perché sono invidioso di quella irragionevolezza e se avessi la vostra età vorrei fermarmi a scuola a dormire con i miei amici. Vado via perché i miei colleghi durante l'occupazione non fanno altro che criticare e correggere la sintassi dei comunicati degli studenti. Resto perché molti dei miei colleghi, anche quelli che criticano sempre, sono bravi insegnanti e brave persone, spesso anche amici. Resto perché al Vittorini conosco molti ragazzi che si fanno un mazzo così per provare ad essere dei bravi studenti. Resto perché al Vittorini gli studenti sono piuttosto docili e curiosi e non è difficile far lezione. Resto perché siete abbastanza educati e di solito mi salutate nei corridoi. Resto perché, anche se non vi alzate in piedi quando entro in classe, mi sento quasi sempre rispettato. Resto perché, grazie a Dio, qualche volta non avete voglia di essere docili ed educati e le vostre curiosità sono diverse dalle mie. È la lettera di un prof del liceo Vittorini di Milano che ha scelto così di parlare dell'occupazione della sua scuola. E torniamo oggi sull'indagine Ocse Pisa, ne abbiamo parlato tanto nei GR, avrete letto paginate e paginate su giornali, insomma per il nostro paese finalmente non è andata tanto male. Per la prima volta in 10 anni la temutissima classifica che misura il livello degli studenti di 15 anni, quindi diciamo seconda superiore, in 74 paesi ci dice che siamo sempre nella parte bassa della classifica e dunque sotto la media Ocse, ma finalmente dopo 10 anni di cali i nostri studenti stanno migliorando sensibilmente nelle capacità di lettura, nelle conoscenze scientifiche e matematiche. In vetta alla classifica invece Cina, in realtà solo l'area di Shanghai, Corea, Finlandia, Hong Kong e Singapore. Giovanna Licini dell'agenzia di stampa Radio Cor si è fatta una chiacchierata con Francesca Borgonovi, analista dell'Ocse e fra gli autori del rapporto. È un'inversione di tendenza, quindi c'è stata una tendenza generalmente al ribasso negli anni precedenti e invece finalmente questa tendenza si è invertita. Tuttavia c'è ancora sicuramente molto da fare, quindi rallegrarsi sì, ma non poi troppo. Tra i dati salienti del rapporto vi sono poi le disuguaglianze di performance in Italia tra le scuole e anche tra le regioni. Abbiamo visto di una Lombardia che è a livelli di Canada e Australia, e in generale tutto il nord che va bene, e mentre al sud i punteggi sono bassi e le eccellenze sono rare se non assenti. Solo la Puglia sembra aver fatto dei progressi. Sono dati solo italiani o ci sono riscontri anche in altri paesi? In generale direi che la tendenza ad avere delle grosse differenze a livello regionale si applica un po' a tutti i paesi che hanno deciso di avere uno studio dettagliato a livello regionale. Quindi non dobbiamo preoccuparci troppo per ora di questo divario o è comunque preoccupante? No, è sicuramente preoccupante e vorrei aggiungere solamente che ad esempio se si guarda alle capacità e alle conoscenze scientifiche vediamo che comunque la Puglia ad esempio non è l'unica regione che ha migliorato, restando al caso italiano tra il 2006 e il 2009 anche la Campania, la Sardegna tra le regioni del sud hanno avuto un miglioramento se non grosso come la Puglia, comunque un grosso miglioramento e poi si passa a delle eccellenze come quelle della Lombardia e della Valle d'Aosta che hanno visto un punteggio già da molto superiore alla media del sud, andare ancora più avanti. Un altro aspetto interessante dal punto di vista delle disuguaglianze è quello che mostra come ci sia un divario tra le competenze tra studenti italiani e studenti che o non sono nati in Italia oppure che sono nati in Italia ma i cui genitori non sono nati in Italia, quindi migranti di prima o seconda generazione. Quindi alcuni di questi studenti sono italiani e nonostante questo c'è un divario che è cresciuto di circa 33 punti o l'equivalente quasi di un anno scolastico. Un altro aspetto che mi ha colpito, ma visto che un po' dappertutto, è che le ragazze sono più brave dei ragazzi, perlomeno nella lettura, non in matematica. Sì, le ragazze in media nell'area OCSE hanno una performance che è di circa 39 punti superiore a quella dei loro compagni maschi. La cosa interessante è che nei paesi in cui c'è, si può dire, maggiore uguaglianza tra uomini e donne, come possono essere ad esempio i paesi scandinavi, si registra una performance delle ragazze estremamente più elevata, superiore alla media OCSE per le ragazze in lettura e a cui corrisponde una sostanziale uguaglianza con gli studenti maschi, con i ragazzi in matematica, oppure addirittura in alcuni casi una migliore performance anche in matematica. L'Italia si colloca abbastanza in linea con l'area OCSE, con uno svantaggio per i ragazzi di circa 46 punti e in un certo senso possiamo vedere come le ragazze normalmente facciano più pratica di lettura, al di là di quello che succede a scuola. Le ragazze leggono molto di più per piacere, leggono molto di più testi che sono più complessi, come possono ad esempio essere dei romanzi, dei testi di questo tipo. Perché è importante ridurre queste disuguaglianze nelle performance scolastiche? Cioè c'è una connessione diretta tra risultati scolastici, competenze scolastiche e sviluppo economico? Ci sono due ragioni fondamentali per cercare di ridurre le disuguaglianze nelle performance scolastiche. Il primo è sicuramente sono ragioni di equità. La grande correlazione che c'è tra il livello socio-economico della famiglia di origine e performance scolastiche indica che di fatto non c'è un'uguaglianza nelle opportunità che viene data a ragazzi che vanno in scuole diverse, che provengono da famiglie diverse, di avere le stesse performance, di avere le stesse possibilità di primeggiare. Quindi la prima ragione è una ragione di equità, ma sicuramente anche in termini di efficienza avere delle grosse disuguaglianze, soprattutto con larghe fette della popolazione scolastica di ragazzi che un giorno entreranno nel mondo del lavoro, che non hanno le competenze minime per competere in un mondo, in un'economia sempre più globalizzata, è problematico. Ultima domanda appunto riguarda il fatto che nel rapporto primeggiano la Corea e la Finlandia nell'area OCSE, cioè le paesi industrializzati, ma a livello assoluto gli studenti migliori sono nella provincia di Shanghai in Cina, che sono poi bravissimi soprattutto in matematica, e sono ultra bravi anche i quindicenni di Singapore e di Hong Kong. Beh, sicuramente molti sono rimasti sorpresi dalla performance eccellente di Shanghai, però se si fa vedere il sistema scolastico di Shanghai o il sistema scolastico di Hong Kong, hanno delle caratteristiche che li portano a primeggiare. Queste sono basate su una riforma continua del sistema scolastico. Basti pensare che ad esempio una caratteristica estremamente interessante è che i dirigenti scolastici migliori che vengono nelle scuole che hanno migliorato maggiormente le proprie performance, gli viene chiesto di prendere e di spostarsi, di andare nelle scuole che hanno le performance peggiori, cercando di creare un circolo virtuoso. Ci sono delle partnership tra i distretti urbani che normalmente hanno delle performance migliori con i distretti più rurali nella provincia per appunto cercare di far imparare a chi va peggio che cosa viene fatto in maniera diversa. Nelle scuole che vanno veramente molto male c'è quella che viene chiamata un'amministrazione controllata, dove delle scuole pubbliche che vanno particolarmente bene, dove la leadership è particolarmente forte, hanno la possibilità di in un certo senso prendere il controllo dell'amministrazione delle scuole che vanno peggio e aiutarle a migliorare. Questo è visto proprio come un aiuto e come il cercare di migliorare l'intero sistema. Ed è tutto, ci risentiamo sabato prossimo, come sempre alle 12.45.